24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, siamo qui cari ascoltatori alle 7:21 minuti, eccoci, saluto anche il nostro Peter Vescapè in regia, riparto la settimana di 24 mattino, oggi avremo ospite Leo Luca Orlando, onorevole dell'Italia dei Valori, per capire che succede a Palermo, anche per commentare la sentenza dell'Utri che fa discutere. E poi parleremo ancora di costi della politica. Esce domani un nuovo libro del genere intitolato Spudorati. L'autore è il direttore di TGCOM 24 Mario Giordano, che sarà nostro ospite. Ne parleremo di questo alle 8:30. Ora da cosa iniziamo? Beh, come al solito iniziamo dalla lettura dei quotidiani che trovate in edicola. Questo lunedì 12 marzo, intanto uno sguardo ai titoli di apertura dei giornali. Il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì. Tasse locali senza tregua, rincari anche per l'IRPEF. Questo è il titolo d'apertura, così vi mettete già di buon umore appena prima di andare a lavorare. Poi i titoli degli altri quotidiani. Corriere della Sera, spese 100 miliardi al setaccio. C'è un'intervista al ministro Giarda: dal taglio degli sprechi risorse per ridurre le tasse. L'Afghanistan, strage di bambini, questo è il titolo invece di apertura di Repubblica. La Stampa invece sceglie lavoro, il governo trova i fondi. Il Giornale, Bossi suicida la Lega, grane padane. Per il Messaggero invece ancora la vicenda dell'uccisione di due ostaggi, un italiano in Nigeria, spunta il video dell'ostaggio, la Farnesina lo mostrò alla moglie pochi giorni prima del blitz, mentre l'Unità, Rai, la resa di Monti, scompare la riforma. Come vedete non c'è una notizia che si impone sulle altre, i giornali, ognuno sceglie un'apertura diversa. Io da cosa voglio partire? Beh, una bella storia tutta italiana che racconta Giuseppe Salvaggiulo in prima pagina della Stampa, dal titolo La scuola di magistrati non c'è, ma è già pagata. Non siamo ancora ai livelli epici d'Italia-Germania 4-3, ma la contesa Benevento-Catanzaro per la sede della scuola di magistratura promette bene. Dopo 6 anni siamo 3-2. Per Benevento, col gol del sorpasso segnato in questi giorni dal Consiglio di Stato. Una sfida nata nel 2006, quando il governo Berlusconi assegna la sede a Catanzaro. Poi, pochi mesi dopo, subentra il ministro della giustizia Mastella e la sposta dove? Nella sua città, Benevento. Catanzaro insorge, si mobilita e ricorre al TAR. Nel 2009 dà ragione il TAR ai calabresi, ma tra il 2010 e il 2011 i ministri Alfano e Nitto Palma, al di là di impegni verbali, deludono Catanzaro. Sentenza non eseguita e scuola congelata, pareggio. Benevento non si dà per vinta, si rivolge al Consiglio di Stato, che ribalta la prima sentenza restituendo la scuola ai Sanniti. E non è finita, perché Catanzaro ovviamente già prepara un nuovo disperato ricorso. Insomma, c'è la scuola della magistratura, che è un progetto dal 2006, che Benevento e Catanzaro si stanno combattendo, contendendosela come sede. Non è mai partita, quello che sono già partiti sono i costi, ovviamente. Una lunga storia tutta italiana. Perché i costi? Perché secondo il sito l'inchiesta.it il conto è già salato. 2 milioni sono stati spesi a Catanzaro per ristrutturare Palazzo Doria, per essere pronti in quel caso, nel caso la sede della magistratura, della scuola della magistratura venisse assegnata proprio a Catanzaro. 5 milioni sono già stati spesi a Benevento per ristrutturare l'ex caserma Guidoni, perché dovesse essere assegnata a Benevento. Siamo pronti. E in più sono stati spesi anche già 14 milioni a Scandicci, in provincia di Firenze, per Villa Castelpulci. Perché? Perché inizialmente si pensava che anche Firenze, o meglio Scandicci, potesse essere scelta. E dunque in tutto circa 22 milioni di euro già pagati per 4 sedi virtuali di una scuola fantasma che non ha ancora fatto un giorno di nella quale non si è tenuto ancora un giorno di lezione. E chissà se la scuola per magistrati, ideata 6 anni fa e ancora non partita, partirà mai. In ogni caso trovate sotto la dicitura guerre di campanile questa intera pagina 13 della Stampa, che vi racconta la storia della scuola della magistratura in Italia. Oh, poi, cari ascoltatori, soprattutto a Napoli sarete interessati, ma no, non solo in tutta Italia, perché c'è Maradona, e l'avete sentito che è pronto al dribbling finale, quello più difficile probabilmente, quello contro Attilio Befera, stopper notorio dalle qualità indomabili, colui che mai cede di fronte a un euro di contenzioso con il fisco. Ebbene sì, Maradona, che deve all'Italia, è un bel po' di quattrini, mi pare di aver capito, non so in quanto sono quantificati, ma Maradona ci deve un bel po' di soldi, per conti e contratti che ha fatto quando era in Italia, e il fisco e Equitalia gli sono alle calcagna, alle caviglie, ai polpacci stretti da anni. Ogni tanto riescono a pignorargli, una volta gli hanno pignorato un orecchino da 4.000 euro, poi battuto all'asta 25.000 euro. Un'altra volta gli hanno preso, sto leggendo dal Corriere della Sera un articolo imperdibile di Goffredo Buccini a pagina 6, il titolo è Maradona il fisco, quell'impossibile ultimo dribbling. Un'altra volta gli hanno preso due Rolex, sì, uno per il polso destro e uno per il polso sinistro, li teneva tutti e due in modo da abituarsi al fuso Italia-Argentina, Europa-Argentina. Un'altra ancora gli hanno preso i compensi TV quando venne a ballando con le stelle, credo quel programma lì della Carlucci, mi pare lì, e gli hanno pignorato parte del compenso, no? E noi non molliamo l'osso, dice Equitalia. Sta di fatto che invece Maradona, in un'intervista a Sky da Dubai, ha detto: vorrei tornare in Italia, vorrei però chiarire tutto con il fisco. Cioè lui vorrebbe proprio un incontro con lo stopper di Roma, neanche della Roma, lo stopper di Roma, Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate e presidente dell'Equitalia, a dire: mettiamoci a un tavolo. Mi avete rovinato 20 anni di amicizie, 20 anni che non posso venire a Napoli, 20 anni di amici persi. Vorrei un fisco più umano. Oh, questo a dire il vero non lo dice solo Maradona, ma sentito dalla bocca di Maradona, vorrei un fisco più umano, più vicino alla gente. Sta di fatto che ha detto: lui torno e chiarisco. E Attilio Befera pare che invece la linea sia sì, torni e paghi e poi chiariamo tutto quello che vogliamo. Sta di fatto che vi segnalo pagina 6 del Corriere, Maradona il fisco, quell'impossibile ultimo dribbling, un bel articolo che ripercorre tutta la vicenda dei contenziosi tra Maradona e il fisco in Italia. Ieri, tra l'altro, in appoggio a questo articolo, il Corriere della Sera fa sapere che c'è stato anche un nuovo blitz, questa volta la Valtellina, Sondrio e la Valtellina in scarponi, tuta da sci, i finanzieri, niente divisa, hanno messo proprio l'abbigliamento da sci alpino, sono andati a Bormio, L'Aprica, Madesimo, Chiavenna, poi si sono scesi un po' più a valle, Morbegno, per vedere sempre un nuovo giro di verifiche in 70 esercizi. Questa volta è andata meglio, solo 15 le violazioni riscontrate, circa il 22%. Dunque in Valtellina fanno le cose seriamente dal punto di vista della lotta al fisco, dunque in Valtellina e in Lombardia. E per quel che riguarda sempre questo contenzioso, anche il Quotidiano Nazionale a pagina 3 mette la vicenda di Maradona in prima pagina, a dire la verità è il titolo di apertura del Quotidiano Nazionale, che poi a pagina 3 mette: l'Italia ha proprio un problema di contenziosi col resto del mondo. Anche così, volete sapere quanto è la ricchezza portata oltre confine e per la quale Equitalia reclama qualcosa? Tra i 123 e i 193 miliardi di euro. Fino a 193 miliardi di euro. Accidenti, così i patrimoni all'estero pesano sulle tasse nascoste. Italia contro il resto del mondo, anche così perdiamo 120 miliardi di euro, a pagina 3 del Quotidiano Nazionale. A questo punto, di fronte a questa cifra, non tutta imputabile a Maradona, bisogna dire pibe de oro. Vieni, chiarisci quello che vuoi e paga, paga. E Eccoci qua, allora, alle 7:36 minuti, cari ascoltatori. Come detto, non è che esiste, non è che c'è una pagina, una prima pagina dei giornali che si impone sulle altre oggi, e non è che c'è un tema che accomuna le scelte dei quotidiani. Ogni quotidiano fa una scelta diversa, allora cerchiamo di orientarci. Beh, se vogliamo, la politica ancora si interroga sul dopo sentenza che ha coinvolto il senatore Marcello Dell'Utri sabato scorso, o meglio venerdì sera. Il fatto che la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna in appello a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Annullamento con rinvio vuol dire che bisognerà svolgere un nuovo processo di secondo grado d'appello con un'altra corte. In realtà le polemiche sono tutte legate al fatto che il procuratore generale della Cassazione, Iacoviello, nella sua requisitoria ha messo in dubbio in maniera, con un attacco frontale, il concetto stesso di reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Da allora e da quel momento sono tutte polemiche su questo tema. Ieri Berlusconi ha definito, poche parole, 19 anni di sofferenza e di gogna, una cosa incredibile, così ha definito, dunque, sofferenza e gogna, il processo al senatore Dell'Utri, uno dei suoi più stretti amici e collaboratori da sempre. Ma il tema del concorso esterno in associazione mafiosa è il tema che, sia nel weekend, se avete letto i giornali e i commentatori, sia oggi sui giornali, prende più spazio. Il Repubblica, a pagina 13, con Francesco Viviano, vi invito alla lettura. Cosa fa? Va a sfrucugliare nelle mail, quindi negli scambi di parere tra i giudici stessi. C'è chi definisce il sostituto procuratore generale uno Iacoviello qualsiasi, chi si vergogna, chi esorta i colleghi a tenere la schiena dritta per poter pronunciare ancora i nomi di Falcone e Borsellino, ma c'è anche chi, indignato, non accetta di partecipare all'assalto a Iacoviello. Questo si legge se si vanno a controllare gli scambi di mail all'interno della mailing list in cui ci sono tutti i magistrati. Il primo a lanciare il sasso nello stagno è un giudice di Milano. Provo un profondo senso di frustrazione e rabbia. Non può essere che il nostro sistema giudiziario funzioni bene se Carnevale può stare in Cassazione fino a 87 anni e se uno Iacoviello qualsiasi viene sempre designato a far requisitorie che sembrano difese d'ufficio. E da qui parte appunto un dibattito, per cui giudici, il dibattito via mail su Iacoviello e la sua requisitoria pro annullamento e sul fatto che lo stesso Iacoviello dice che il concorso esterno in associazione mafiosa appunto è un reato a cui non crede più nessuno. Questo ha detto in sostanza nella requisitoria. Da qui appunto ogni giornale la pone in modo diverso. L'Unità intervista Nino Di Matteo, procuratore a Milano, che dice è irresponsabile questo attacco al concorso esterno. L'intervista la potete leggere a pagina 14. Il Messaggero invece, con Sara Menafra, intervista a pagina 9 l'ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, che dice il concorso esterno effettivamente è un reato troppo generico. Insomma, diciamo che ognuno ha la propria idea, ognuno ha la propria posizione su questo. Sta di fatto che quando si tratta di giustizia, Italia, e poi quando soprattutto si coinvolge anche la politica, non si riesce mai arrivare a capo di quasi nulla e sono solo polemiche di questo tipo. Questa polemica per quel che riguarda ovviamente la sentenza Dell'Utri. Tra l'altro noi avremo ospite Leo Luca Orlando alle 8:20, ex sindaco di Palermo. Qualcuno vocifera che potrebbe anche candidarsi dopo il pasticcio delle primarie del centro-sinistra. Vedremo di fare due chiacchiere con lui anche su questo. Mentre oggi l'altro tema politico, certamente, anche se va a rilento, è una trattativa importante, centrale in questo snodo della legislatura Monti, o meglio di questa legislatura, di questa parte del governo tecnico, è quella della riforma del mercato del lavoro. Va a rilento nel senso che ci sarà oggi il sesto incontro, il 25 marzo è la data entro la quale Monti ha detto presenteremo la nostra proposta per la riforma del mercato del lavoro. Oggi Repubblica scrive che il Partito Democratico è tentato dalla riforma Fornero, un Partito Democratico sempre più alla ricerca di un accordo unitario sul mercato del lavoro. L'intervista più interessante ve la segnalo dalla Stampa, pagina 2, il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, fa un'intervista ad Alessandro Barbera e dice la soluzione, giura Bonanni, è vicina. Non credo converrebbe a nessuno ora rompere, né credo lo cerchi il governo. Il rischio c'è, non posso negarlo. Il motivo ha a che fare con i troppi no e le troppe impuntature della CGIL. Dunque Bonanni punta il dito contro la CGIL. Mi piacerebbe che questa volta facesse la sua parte fino in fondo. Se però da parte loro non ci fosse nessuna apertura, non permetteremo che il governo ne approfitti per fare da solo. E comunque poi Bonanni si dice ottimista. Dice: io credo che le condizioni per farlo, questo accordo, ormai ci siano. Certo, bisogna evitare la logica degli opposti estremismi. Sulla questione annosa, quella della questione dell'articolo 18, irrisolta, dice Bonanni: sulla tutela da abusi e discriminazioni siamo inflessibili, per gli altri tipi di licenziamento proponiamo di applicare il modello tedesco, un ricorso veloce di fronte al giudice con due rappresentanti, uno del lavoratore e l'altro dell'impresa. Il giudice decide se integrare o meno, se c'è abuso o discriminazione dispone l'immediato reintegro, negli altri casi deciderà per un congruo indennizzo. Dunque soluzione alla tedesca, dice Bonanni, per la questione del licenziamento dell'articolo 18. Tra l'altro, se andiamo oltre confine, il mercato del lavoro, è interessante vedere che cosa hanno fatto in Svizzera, dove ieri si è tenuto un referendum. In Svizzera si tengono referendum per tante cose importanti e la gente crede all'istituto del referendum e la gente va a votare per il referendum, perché tra l'altro quello che si vota per il referendum viene poi rispettato. Non è come qui in Italia, che ne so, che abbiamo abolito il finanziamento ai partiti e ci ritroviamo il contributo elettorale per i partiti, cioè delle truffe vere e proprie. Lì, se si vota una cosa, al referendum si vota e quello è. Ebbene, ieri la Svizzera doveva votare su una domanda molto semplice. Udite, udite, cari ascoltatori. Messa molto stringata è così: volete avere più vacanze, cari lavoratori? 6 settimane all'anno invece che 4? E gli svizzeri hanno votato no. Vacanze più lunghe in Svizzera stravince il no. Fallisce il referendum per allungare le ferie da 4 a 6 settimane. Le imprese avevano fatto sapere: così ci sarà recessione, così saranno costi insostenibili. E il popolo svizzero, la Svizzera, nonostante l'iniziativa di questo sindacato che chiedeva 6 settimane di ferie per tutti i lavoratori, ha votato nettamente per il no. Il 66,5% dei votanti ha manifestato un grande senso di realismo, così almeno gli industriali hanno definito questa vittoria. Tra l'altro, il Secolo XIX, niente ferie in più, siamo svizzeri, mette il commento in prima pagina. Gli svizzeri sorprendono tutti, scrive Bruno Lugaro. Chiamate alle urne per decidere se accettare o meno ferie più lunghe per combattere lo stress e migliorare la qualità della vita, rispondono no. Grazie. A loro 4 settimane bastano e avanzano, 6 sarebbero troppe. Un non senso in un momento di crisi dell'economia mondiale. Così in Svizzera. Tornando appena al di qua della Svizzera, invece, giusto per segnalare di politica, c'è un Bossi che tuona. Berlusconi fa pena e Tosi, sindaco di Verona, se si fa la sua lista, è fuori. Tanto che il giornale in prima pagina titola... cos'è che titola il giornale? Bossi suicida la Lega. Sembra ormai, ma anche qui è una cosa che va misurata con il termometro giorno per giorno, che i rapporti tra PDL e Lega siano agli sgoccioli, ma chissà, ogni giorno c'è la sua sorpresa. Dopo mi accusano di rendervi il lunedì mattina difficile, ma insomma, il Sole 24 Ore, questo è il titolo. E questo sono le due pagine, pagina 2 e 3, che vi invito a leggere perché riguardano tutti noi, cari ascoltatori. Tasse locali senza tregua, rincari anche per l'IRPEF. Sono due pagine che fanno capire come, da elaborazioni che fa il Sole 24 Ore, per le tasse locali si potrà arrivare a incrementi fino al 150% rispetto all'anno passato, al 2011. Questo è l'effetto combinato di IMU e addizionali comunali e regionali all'IRPEF, che spinge verso l'alto il conto che le famiglie pagheranno al fisco locale. I comuni si preparano a far quadrare i bilanci preventivi da varare entro il 30 giugno. L'ho detto la scorsa settimana, no? C'è da sistemare il bilancio del comune di Milano? Pagare. Sistemare il bilancio del comune di Roma? Pagare. Il comune di Torino? Pagare ovviamente noi cittadini. Cosa fanno? Aumentano l'IRPEF, eccetera. E quindi sono finora 39 i capoluoghi di provincia che stanno studiando aumenti dell'addizionale IRPEF o le aliquote IMU più elevate di quelle fissate a livello nazionale, cioè 0,4% sulla prima casa e 0,76% sugli altri immobili. Sommando i possibili rincari, quest'anno l'aumento può arrivare fino al 150% delle imposte versate nel 2011. E vedetevela un po' voi, pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. Invece a pagina 4 uno gira e trova, no, questo da una parte pagare cittadini, le regioni dribblano i tagli. Ma come le regioni dribblano i tagli? Bisogna pagare tutti. Le regioni invece dribblano i tagli. Solo Veneto e Toscana hanno deciso la riduzione dei consiglieri. Giuseppe Latour e Francesco Nariello raccontano in una pagina come per gli stipendi vince il metodo fai da te. Sul taglio dei consiglieri solo due regioni sono virtuose, Toscana e Veneto, che hanno deliberato una potatura in linea con i parametri fissati dal governo. Questo è per sì la riduzione della dimensione dei consigli. Per quel che riguarda invece la riduzione di consiglieri e assessori, due sole eccezioni, Lombardia e Emilia-Romagna, che già rientravano nei parametri fissati, che hanno ridotto a 80 e 50 consiglieri. Sul fronte invece della riduzione dei consiglieri di tutte le altre regioni, la manovra stabiliva che la composizione delle assemblee fosse ridimensionata, un criterio che impone tagli pesanti a quasi tutti i governi locali, ma le regioni fanno finta di non sentirci. Parleremo anche di questo alle 8.30 con il direttore del TGCOM 24, Mario Giordano, che ha scritto questo libro, Spudorati, è in libreria da domani. Tra l'altro, a proposito di questi tagli, vi invito alla non lettura dell'intervista che il ministro Pietro Giarda fa al Corriere della Sera. Il Corriere la mette a pagina 3 come l'intervista del giorno, un'intervista nella quale Giarda risponde un'intera pagina, Enrico Marro, nella quale non dice nulla. Cioè le frasi sono: ci vuole la spending review, cioè rivedere 100 miliardi di euro destinati alle spese di personale dell'amministrazione, tutto da rivedere, ridurre gli sprechi, ridurre le duplicazioni, ridurre le consulenze, dobbiamo ridurre di qui, ridurre di là, ma non spiega in una pagina nulla di come verranno fatte queste riduzioni. In ogni caso andiamo alla politica estera, che siamo di fretta, e la politica estera si impone l'orrore di quello che è successo in Afghanistan, dove, scrive il Corriere della Sera, un soldato americano spara a 16 civili, è una vicenda incredibile, la trovate a pagina 10, non è stata una bomba impazzita, un errore di intelligence o lo sbaglio di un militare che col suo joystick ha sganciato il missile del drone telecomandato sulla casa sbagliata, è stata una strage porta a porta, bambino per bambino, tempia per tempia. Questo è il massacro di 16 civili uccisi nel sonno l'altra notte in due villaggi della provincia di Kandahar, compresi 9 bambini e 3 donne. È la prima volta che civili afghani vengono attaccati in questo modo. A uccidere domenica notte è stato un soldato americano, uno solo secondo la versione dei comandi americani, un sergente di cui non è stato dato il nome. Si sa che proviene dalla base Lewis McHord, stato di Washington, assegnato alle forze speciali, e che dopo la strage è tornato alla base da cui si era allontanato alle 3 del mattino e si è consegnato ai superiori, è entrato in varie case e così ha ucciso deliberatamente. Secondo un giornalista della France Press andato sul posto, sono entrato in 3 case, dice, ho contato 16 morti, inclusi bambine, donne, anziani, uccisi e bruciati. Una strage della follia, una cosa che chiaramente potrà creare e creerà molti, sta già creando molti problemi. I talebani hanno promesso vendetta. Tutti i giornali, sia il Corriere della Sera con Michele Farina, pagina 11, racconta come dal 2001 a oggi ci sia un record di militari affetti da disordini della personalità, da sindrome del post-stress traumatico. Ci sono almeno 400.000 militari che soffrono di problemi psicologici negli Stati Uniti perché sono reduci da queste missioni. Tra l'altro negli ultimi tempi è stata un'escalation, come racconta Gianni Calessin sul giornale, dalla pipì su alcune vittime, soldati americani che urinavano su alcune vittime, il rogo del Corano, ora questa strage davvero della follia. Vittorio Zucconi racconta dal Vietnam all'Iraq quell'orrore che insegue i soldati al fronte, un'intera pagina, pagina 9, la strage di My Lai, per esempio, in Vietnam, tra le più storiche, dove durante la guerra il tenente USA William Kelly ordinò l'uccisione di 500 abitanti di un villaggio vietnamita. Insomma, una vicenda incredibile come quella dei Marò, per la quale vi segnalo, giusto in stretta chiusura, l'intervento del ministro Terzi degli Esteri in una lettera al Corriere della Sera, pagina 19, dalla Nigeria all'India, con le polemiche, non si risolvono le crisi, tra l'altro sull'India, ma Terzi conferma: ho sempre detto, fin dal primo momento, mi ero opposto al fatto che la nave sbarcasse in India. Sarà stato questo armatore che ha fatto tutto da solo e ha dato e ha consegnato i nostri Marò all'India. 10 secondi per concludere, solo il titolo della Gazzetta. Milan è la svolta buona, più 4. Non si sa, perché dall'altra parte della Juve non c'è risposta. E sono in silenzio stampa e quindi niente. Stiamo così, silenzio. 24 mattino. Alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, vogliamo parlare un pochino di politica, intanto lo facciamo con l'onorevole Leoluca Orlando dell'Italia dei Valori. Buongiorno onorevole, benvenuto. È caduta la linea, lo recuperiamo tra un attimo con Leoluca Orlando dell'Italia dei Valori. Ovviamente vogliamo parlare sia della vicenda, ancora le polemiche per l'annullamento con rinvio della condanna di Marcello Dell'Utri, sia la situazione a Palermo. Eccolo, l'abbiamo recuperato, onorevole Orlando, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, ci sono ancora intanto le polemiche sulla vicenda dell'annullamento con rinvio della condanna a Marcello Dell'Utri. Intanto la domanda che si pongono tutti in questi giorni: lei crede al reato di associazione esterna alla mafia, concorso esterno in associazione alla mafia? Posso fare una domanda? Lei crede che esiste la mafia? La mafia è un sistema di potere, e la mafia è un sistema di potere che non può combattersi con i normali strumenti che si usano per combattere le altre forme di criminalità. È tanto un sistema di potere che si deve combattere con mezzi particolari che esiste il 416 bis, ter, quater, il 41 bis, tutta una serie di norme che cercano di evitare di contrastare la mafia, così come si contrasta un rapinatore piuttosto che un ladro. E da questo punto di vista non c'è dubbio che il concorso esterno all'associazione mafiosa è la conferma che la mafia è un sistema di potere che si avvale di collaborazioni anche di soggetti esterni, non strettamente legati alla struttura piramidale e gerarchica della mafia. Però che paese è quello in cui, non so, a 20 anni dalle stragi ancora la procura di Caltanissetta ricostruisce una nuova fase? A 19 anni, Berlusconi ieri ha definito per esempio una gogna di 19 anni, cioè una giustizia che poi sono vicende diverse ovviamente. Intanto andiamo ai fatti. Il senatore Dell'Utri in atto è condannato a 9 anni in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Adesso, dopo sentenza della Cassazione, riprende il processo in appello. Un dato è certo ed è incontestabile, che il senatore Dell'Utri abbia avuto frequentazioni accertate e non contestate con boss mafiosi. Abbiamo due diverse valutazioni: uno quello giudiziario, per il quale in atto Dell'Utri è un condannato a 9 anni in primo grado e si attende adesso il processo di appello, e dall'altro è un frequentatore accertato di mafiosi. Senta, Palermo, è una brutta vicenda questa delle primarie. Perché lei chiede e voi chiedete l'annullamento delle primarie? Non vi sta bene come sono andate? No, le primarie sono uno strumento di democrazia importante, sono uno strumento di partecipazione, sono uno strumento di partecipazione che non può certamente essere off limits rispetto a elementari regole che valgono anche per le elezioni, quelle diciamo ufficiali, quelle formali. Non è ammissibile che possano celebrarsi primarie con scambio di voti, con acquisto ed erogazione di denaro, con minacce, con una serie cioè di fatti ed episodi che sono stati tutti registrati, identificati dalle forze dell'ordine intervenute mentre si celebravano le primarie. In nessuna elezione democratica si verifica quello che si è verificato delle primarie a Palermo. Vorrei dire, le primarie hanno il dovere di essere eticamente ancora più esigenti di quanto non siano le normali elezioni, proprio perché sono un esercizio di democrazia che in quanto tale non può sopportare ovviamente la manipolazione del consenso. Beh, diciamo tutte le elezioni dovrebbero essere iperregolari, però le elezioni primarie... Siamo a Palermo, una città nella quale nel 2007, voglio ricordare, è stato rieletto l'attuale sindaco uscente Cammarata con brogli che io ho denunciato con condanne al carcere di alcuni soggetti coinvolti in questi brogli, in primo grado e in secondo grado, e con un ricorso al TAR che porterà all'annullamento di quelle elezioni. Sì, che ci sono fuori tempo massimo, finita, le dice. Però senta, la questione è questa: adesso il Comitato dei Garanti si esprimerà. Mettiamo il caso che il Comitato dei Garanti dica è tutto regolare. Voi continuate a insistere: il nostro candidato è Rita Borsellino, ma Rita Borsellino, se è tutto regolare, ha perso. Torniamo al caso dell'Utri? Allora torniamo a quello che è l'accertamento formale e quello che è quello sostanziale. La politica non cambierà fin tanto che non avrà la capacità di esprimere giudizi etici a prescindere dalle sentenze formali. A parte questo che fate tra due mesi? A parte questo noi siamo convinti che dal punto di vista sostanziale sono state delle primarie del tutto inquinate e quindi con dei risultati inattendibili. Attendiamo che i garanti accertino quello che in sede formale, quello che comunque è un dato sostanziale, cioè primarie inquinate, inaccettabili per noi. La candidata era e rimane Rita Borsellino. Ho capito, però ripeto, siccome è la vicenda, questa avrà almeno una scadenza, tra due mesi si saprà, insomma, anche prima, e poi tra due mesi ci sono le elezioni. Molto motivata, perché domani si riunisce il Comitato dei Garanti, appunto, che dovrebbe decidere. Ecco, nel momento in cui domani decide, cioè mettiamo il caso che decida di andare avanti, è tutto regolare, quindi è Fabrizio Ferrandelli il candidato del centro-sinistra, intanto lei lo appoggia? No, forse non sono stato chiaro. Allora, per noi c'è una valutazione già espressa con chiarezza il giorno stesso in cui abbiamo visto, registrato e denunciato l'esistenza di queste anomalie, le chiama anomalie, sì. La magistratura sta indagando, ci sono anche degli indagati tra i sostenitori di Ferrandelli, ma a prescindere dal procedimento penale, insisto, queste primarie sono state visibilmente inquinate, noi non ci sentiamo vincolate da primarie che sono state inquinate. E quindi vuol dire che non siete vincolate ad appoggiare Ferrandelli. Non sosterremo sicuramente chi viene indicato da queste primarie inquinate e sosteniamo, come sostenevamo, Rita Borsellino. Ho capito, ma Rita Borsellino si dovrebbe candidare a quel punto. Se non si candida, che fa? Si candida Leo Luca Orlando? Leo Orlando ha detto in lingua aramaica, ma anche in lingua fenicia, scelga lei quella lingua preferisce fra le due più antiche alfabeti del mondo, che non era candidato, non si considerava candidato e non sarà candidato. Il tema non riguarda Luca Orlando, riguarda la qualità etica di una competizione elettorale e riguarda soprattutto la chiarezza dei progetti, dei programmi di chi si candida. E che fate? Convincete Rita Borsellino a candidarsi? Noi siamo convinti che di fronte a primarie che sono state inquinate, Rita Borsellino, che è stata la prima vittima, accanto ai palermitani che hanno creduto in questo istituto, si possa candidare e si debba candidare. Ah. Questa è la nostra richiesta. Così facciamo tutto il ventaglio delle opzioni. Se Rita Borsellino rifiuta, voi chi sostenete? Nessuno? Noi non abbiamo subordinate, per noi c'è Rita Borsellino come candidata. Dopodiché sarà lei a decidere cosa fare, un minuto dopo decideremo noi altri cosa fare. Certamente non riconosceremo questa primaria inquinata. La ringrazio, è stato chiarissimo. Grazie. Leo Luca Orlando, onorevole dell'Italia dei Valori, portavoce dell'Italia dei Valori, insomma, per la situazione di Palermo. Domani credo il Comitato dei Garanti del Partito Democratico deciderà. Situazione ancora in subbuglio. Dopo la pubblicità, tra 5 minuti, parleremo con il direttore di TGCOM24 Mario Giordano e con il senatore Luigi Grillo. Esce domani un nuovo libro di Mario Giordano, per l'appunto, il titolo è Spudorati. Chi sono gli spudorati? Forse lo avrete già capito. Tutti i politici che hanno promesso quei tagli ai costi della politica, tagli che ancora non sono arrivati. 24 mattino. Eccoci qua, allora, alle 8:35 minuti, esce domani in libreria, 13 marzo, edito da Mondadori, Spudorati, già il titolo emblematico, la grande beffa dei costi della politica, False promesse e verità nascoste. L'autore è il direttore di TGCOM 24, Mario Giordano, che saluto. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con noi c'è anche a parlare, intanto poi le chiederò subito chi sono gli spudorati, ma una rispostina, un'idea ce l'ho. Comunque voglio salutare il senatore del Popolo della Libertà, Luigi Grillo. Senatore, buongiorno. Senatore Grillo, buongiorno, eccoci, buongiorno. Chi sono allora questi spudorati, buongiorno. Giordano? Sono quelli che da diversi mesi, da un anno almeno, parlano incessantemente e tutti i giorni di tagliare i costi della politica, poi in realtà le cose che hanno deciso sono aumenti delle tasse, quelle sì reali, mentre gli stipendi dei parlamentari non sono stati tagliati, i vitalizi dei parlamentari non sono stati aboliti, le province restano al loro posto e il Parlamento italiano continua a essere il più costoso del mondo. Ecco, mentre si chiedono sacrifici agli italiani, io credo che questo sia un comportamento davvero spudorato. Tra l'altro oggi, se uno legge il Sole 24 Ore, legge a pagina 3 tutto un calcolo su come i rincari delle tasse locali potranno essere un più 150% rispetto all'anno scorso per i cittadini normali, tutti noi. Poi uno gira pagina 4 e legge questo titolo: le regioni dribblano i tagli. ma come? Cioè, direttore, sempre così, voglio dire, almeno non so se così è la percezione degli italiani, quanto ci sia di vero, se c'è anche un po' di campagna anticasta o se proprio invece è così. Non credo che la campagna anticasta, che il Sole 24 Ore sia, insomma, non solo perché parlo alla radio del Sole 24 Ore, ma mi sembra che sia, diciamo, una rappresentazione oggettiva ed è casuale, ma stamattina abbiamo la raffigurazione esatta di quello che io racconto, estendendolo a tanti casi, a tanti esempi di che cos'è essere spudorati. Se aumentano le tasse, i tagli dei costi stipendi dei consiglieri regionali, di cui si è parlato, riparlato, conferenza delle regioni il 27 ottobre, titoli sui giornali, tagli agli vitalizi, tagli agli stipendi, in realtà restano solo promesse. A fine marzo gli italiani l'addizionale IRPEF la pagheranno, a giugno pagheranno la nuova ICI, l'IMU, a settembre pagheranno l'aumento dell'IVA, gli stipendi dei consiglieri regionali, ne ho la certezza, a settembre saranno ancora esattamente quelli di prima. Io credo che sia inaccettabile. Uno dei casi classici sul quale lei si concentra anche in altro libro è quello delle pensioni, no? Che sono forse l'argomento più sensibile in questo momento degli italiani, no? Le pensioni che vengono toccate, il sistema contributivo e tutto, e per i politici invece c'è questa parola vitalizio. C'è anche per esempio un esempio dei magnifici sei, sono stati definiti, cioè in Sicilia, no? Alcuni parlamentari che chiedono una doppia pensione. No, ma non solo c'è il caso dei sei, c'è un elenco che pubblico nel libro di circa 200 e alcuni pubblico esattamente gli importi, che prendono il doppio vitalizio, cioè essendo stati sia parlamentari sia consiglieri regionali prendono il doppio vitalizio, come se uno avesse una doppia vita, cioè quindi prendono 9.000 euro, 8.000 euro, 7.000 euro come ex parlamentare, 4.000 euro, 5.000 euro come consigliere regionale. Va detto, a onor del vero, che nel campo delle pensioni dei parlamentari, dei vitalizi, proprio grazie alla battaglia che è stata fatta, è l'unico campo in cui è stato fatto un piccolo intervento, perché dal 1 gennaio è entrata in vigore la nuova norma per cui i parlamentari non possono più andare in pensione prima dei 60 anni e quindi il pensionato parlamentare 42 anni, 45 anni, 47 anni, come abbiamo visto fino al recente passato, non è più possibile. Però anche questo io credo che sia abbastanza spudorato, perché nel momento in cui si interviene finalmente sui vitalizi, non solo non si aboliscono i vitalizi passati, che secondo me era quello che si dovrebbe fare, ma si porta l'età pensionale a 60 anni, mentre agli italiani lo stesso Parlamento la porta a 66 anni e 11 mesi. Allora, ai parlamentari il grande sacrificio è andare in pensione a prendere un vitalizio 7 anni prima rispetto a un italiano comune. Anche questo mi sembra abbastanza spudorato. Tra l'altro, non so, qualcuno ci scrive via sms che gli spudorati sono quelli che spendono 180 euro nostri per un piatto di spaghetti, credo al caviale però, o al tartufo, non lo so, forse si riferisce a uno dei conti dell'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, però vorrei coinvolgere su questo il senatore Luigi Grillo. Per carità, senatore, lungi da noi nel eleggerla a rappresentante degli spudorati, oppure, guardi, glielo chiedo, insomma, si sente parte di questi spudorati che promettono e nulla tagliano? No, guardi, nel mio paese ci sono tanti problemi. Un problema serio è che non esiste un'informazione seria. Le cose che ha detto poco fa il dottor Giordano sono un insieme di cose false. Proverò a citare almeno tre casi tra le cose che ho sentito che non rispondono al vero. Punto primo, non corrisponde al vero che il Parlamento italiano è il più costoso al mondo. Punto secondo, non corrisponde al vero che i vitalizi non sono stati toccati. Non è vero quello che ha detto il dottor Giordano, che è solo di recente. Io, nella mia qualità di senatore questore nel 1998, assieme agli altri colleghi questori abbiamo fatto la riforma del vitalizio, quindi dal 1998 i parlamentari prima di 60 anni non possono ricevere alcun vitalizio. E questo l'abbiamo detto, infatti. Scusi, no, lui ha detto che dal prossimo anno, no, è dal 1998. Quarta cosa non vera, profondamente falsa, non è vero che gli stipendi dei parlamentari non sono stati toccati. L'anno scorso ci siamo tassati con una contributo di solidarietà del 10%, sì. Due anni fa i nostri stipendi sono stati bloccati, quindi non seguiamo più la crescita dei magistrati, ma i nostri stipendi sono bloccati. Quest'anno abbiamo subito un ulteriore taglio di cui hanno parlato tutti, che hanno parlato tutti i giornali. Quindi, come vede, a livello ma non sono taglietti, credo, non sono tagliettini, cioè nel senso, rispetto alle promesse fatte, per esempio l'ultima è dimezziamo i parlamentari, nella nuova proposta di legge è sceso al 20% il taglio. Scusi. Anche qui c'è molta ignoranza, mi dispiace che anche lei raccolga criticamente molte cose. Lei deve sapere che i paesi d'Europa col numero di abitanti simile a quello dell'Italia hanno gli stessi parlamentari, Francia e Inghilterra. Non parliamo degli Stati Uniti, dove a fronte di un Senato federale sì. C'è in ogni paese un Senato e una Camera dei Deputati. C'è molto qualunquismo, mi credo. Ho capito, ma il taglio del 50% non l'abbiamo. Ascolti, no, il taglio del 50% non me lo sono inventato io, l'ho sentito ma da se tutti. Ma l'ha inventato qualche suo collega giornalista. Se l'ha inventato ma scusi, collega, ma anche Veltroni dicendo, ha detto di dimezzare dicendo, i parlamentari, Berlusconi l'ha detto. Io sto dicendo che in Europa i paesi con numero di abitanti simile all'Italia hanno il numero di abitanti, il numero di parlamentari dell'Italia, punto. Poi dopo a me risulta che c'è allo studio una ipotesi d'accordo che prevede una riduzione dei parlamentari del 20%. Non l'Italia del 50%, è una fantasia di voi giornalisti. In Parlamento nessuno ha mai proposto una cosa di questo genere. Ma guardi, genere. In Parlamento no, Giordano, realtà. Io non lo so, io tagliare il 50% dei parlamentari, ho letto fior fior di interviste di Veltroni, sì, Berlusconi. Si sono detti d'accordo e credo che sarebbe una misura assolutamente opportuna, anche perché il Parlamento non solo è il più costoso del mondo, come ha accertato la Commissione Giovanni che è stata 4 mesi a studiare dal 1 settembre al 31 dicembre, istituita dal Ministero della Funzione Pubblica, 5 esimi professori hanno studiato a lungo, hanno decretato che gli stipendi dei parlamentari italiani sono i più alti d'Europa, però hanno decretato anche che non sapevano come fare a tagliare gli stipendi che era necessario. Credo la Commissione Giovannini, no? La Commissione Giovannini è finita in una delle grandi beffe, non delle altre burle che vengono fatte ai danni dei cittadini italiani. Ora io sono preoccupato dei sacrifici che il senatore Luigi Grillo ha dovuto fare con questi tagli che sono stati fatti, quindi propongo, non so, ai radioascoltatori se vogliono anche intervenire per sostenere il reddito evidentemente in difficoltà, perché i senatori sono evidentemente in difficoltà dopo tutti questi tagli. Io credo che per essere seri, anziché accusare l'informazione che tira fuori i problemi, forse bisognerebbe fare un po' di autocritica, cosa di cui questa classe politica, di cui il senatore Luigi Grillo fa parte, che ha portato al disastro l'Italia, perché non va dimenticato questo, che se l'Italia ha questo grande debito pubblico, se oggi siamo costretti appunto a fine mese all'addizionale IRPEF e agli interventi dei reni, è anche perché questa classe politica, oltre a essere tra le più pagate, le più viziate del mondo, non è anche tra le più inefficienti. tra le più inefficienti. Su questo... I vitalizi, per esempio, per me, semplicemente andrebbero aboliti, ma non aboliti, aboliti semplicemente. Non tagliati un po', aboliti del tutto. Noi continuiamo ancora a pagare la pensione parlamentare ad un parlamentare che è stato in Parlamento un giorno, sì, continuiamo a pagargliela regolarmente tutti i mesi con le tasse degli italiani. La paghiamo anche a Toni Negri, che credo è stato latitante. È stato in Parlamento 60 giorni, ha partecipato a 9 sedute e noi continuiamo a pagargli tutti i mesi. È uno scandalo. Allora, siamo con Mario Giordano, direttore di TGCom24, autore del libro Spudorati, che esce domani, e il senatore Luigi Grillo. Senatore, mi permetta, se posso darle un consiglio, non ne ha bisogno, non la prenda così di punta, perché cioè non è che l'informazione, la colpa dell'informazione, che sbaglia tutto, eccetera. Per esempio, questa storia delle province, ce lo siamo inventate anche questa, che mille volte abbiamo sentito che dovevano scomparire tutte e risorgono come l'araba fenice ogni giorno? Senta, io non prendo di punta niente, però detesto coloro che hanno messo all'ammasso il cervello e si rifiutano di ragionare, e purtroppo, ahimè, noto che tra i tanti ci sono parecchi giornalisti che praticano questa strada. Lo sa perché? Perché viene di moda parlare della casta dei politici e mai qualcheduno che ricordi che il mio paese, ahimè, è abitato da tante caste. C'è la casta dei magistrati, la casta non c'è dubbio, dei non giornalisti, c'è dubbio, non c'è la casta dubbio. Dei professori universitari, c'è la casta dei grandi dirigenti, hai capito? Quindi adesso va di moda a prendersela. Però io, siccome sono in Parlamento da 25 anni e ho vissuto tante esperienze, i punti di maggior negatività nella storia che ho vissuto li ho scoperti quando c'è stato questo assalto alla politica, finalizzato a fare che cose? Io ho vissuto il 92, appropriarsi dell'argenteria del mio paese, perché attraverso la contabilizzazione della classe politica c'è stato chi ha approfittato, chi ha speculato, chi ha distrutto un'intera classe dirigente, capisci? Quindi la storia del mio paese io credo di conoscerla bene. Però tornando al merito, io rifiuto ovviamente l'ironia del dottor Giordano, a lui dico soltanto: i parlamentari che vivono col loro stipendio, mi creda, non gli avanza nulla. Se un parlamentare batte il territorio, non ci credo. Senatore, non ci credo. Come? Non ci credo, senatore, non faccia come l'onorevole Paniz, che non le rimane nulla in tasca. Ma scusi, se uno lavora, che non le rimane niente in tasca. Cioè che fatica forse a vivere del lavoro. Lei non mi ha capito. Senta, la fatica l'ha detto lei. Io ripeto quello che ha detto, non l'autorizzo a mettermi in bocca cose che non ho detto. Ripeto, un parlamentare che fa fino in fondo il proprio mestiere, cioè sta a Roma, partecipa a tutte le sedute di commissione, di aula, torna sul territorio, apre un ufficio, riceve gente, considera l'intera settimana una settimana di lavoro in cui tenersi a disposizione per i propri elettori il sabato, la domenica, il giorno di festa e il lunedì. Mi creda, a tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Questo io ho detto, cioè non ci credo. Privata, ascolti, non mi faccia parlare. Io sono un funzionario di banca, quando ero in banca riuscivo a risparmiare i denari. Adesso io sono in Parlamento, tutti i denari che il Parlamento mi dà. Ma perché non è rimasto in banca, senatore? Giordano. È noto, che quando ci sono da fare le liste elettorali tutti fanno a gara per andare a lavorare in fabbrica, non per farsi eleggere in Parlamento. C'è la corsa, c'è una corsa forsennata per trovare un posto in fabbrica con cui, o in banca, con cui si riesce a mettere a fare qualcosa. E non ho nulla a che vedere. E non in Parlamento. No, senatore. Senatore, mi scusi. Ma era chiaramente solo i ricchi. Ma era chiaramente un'ironia del direttore. Però voglio dire che lei dice non gli avanza nulla un parlamentare che fa fino in fondo il proprio dovere. Io stento a crederci, ma voglio dire, posso stentare a crederci. Poi possiamo aggiungere una cosa: che evidentemente stentare a crederci, però deve rispettare la mia opinione. Ma certo, ma la rispetto. Perché sennò lei mi deve dimostrare il contrario. io gli faccio vedere la mia nota spesa di quello che faccio durante un mese e gli dimostro che a me non avanzano nulla, e a quel punto lei, per correttezza, non solo deve rispettare quello che dico, ma deve cogliere questo aspetto come veritiero. Va bene, va bene. Ma no, ma noi, certo che rispetto. Il dottor Giordano, che alimentano polemiche, facciano pure. Io non ho capito. Vedi qual è il problema, senatore? Senatore, vede qual è il problema? Che evidentemente di parlamentari che hanno fatto bene il loro mestiere in tutti questi anni, se la situazione è quella che gli italiani si trovano a vivere, ce ne sono pochi, e se la sfiducia nella classe politica, come sottolinea lei, da parte dei cittadini è cresciuta, la colpa non è di chi denuncia le cose che non cambiano, ma forse di chi si prende gioco degli italiani senza mettere in atto quelle riforme, quei tagli che vengono più volte promessi, ripeto, anche negli ultimi mesi sono stati costantemente promessi, il taglio dell'abolizione delle province che ci citava prima il conduttore, è un caso clamoroso, se ne parla dal 46, dal momento in cui sono state approvate, ed è stata approvata la Costituzione, poi nel 70 quando sono state istituite le regioni, si devono sempre abolire, continuano a sopravvivere, continuano a sprecare denari pubblici, quindi evidentemente chi denuncia queste cose, io credo che cerchi di risolvere le cose, chi vuole mettersi la mortadella davanti agli occhi e dire che la colpa è di chi le denuncia, secondo me fa il male degli italiani. In ogni caso, allora la questione è questa, io rinnovo la lettura, poi c'è tutto il capitolo delle consulenze, mi spiace non essere riuscito ad affrontarlo, ma chissà, insomma il tema è caldo anche per il futuro. Voglio ringraziare Mario Giordano, direttore del TGCOM 24, da domani chi volesse approfondire è in libreria, ovviamente Spudorati, edito da Mondadori, e l'autore Mario Giordano. Ringrazio anche il senatore Luigi Grillo del Popolo della Libertà di essere stato con noi. Ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, mi trovate lì, Alino Milan, questo è il mio account, oppure 24 Mattino. Ringrazio anche Elisabetta Fusconi, Alessandro Logoni, Viola Bottoni, redazione, il nostro Peter Bescapè, il nostro Alpino in regia, e l'appuntamento ve lo diamo e lo rinnoviamo a domattina alle 7:20. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.